Letture di Radio 24. Nel 1962 a New York, nel mezzo del quartiere Queens, fu progettata una centrale nucleare simile a quella di Fukushima. Le proteste di un grosso proprietario terriero fecero accantonare il progetto e oggi al suo posto c'è una centrale a gas che produce un quarto dell'energia usata in città. All'alba degli anni 60, mentre una piccola cittadina della prefettura di Fukushima, in Giappone, stava trasformando la sua vecchia centrale al carbone in un moderno e sicuro impianto nucleare, dall'altra parte dell'oceano, la mitica Con Edison, la compagnia che l'inventore della lampadina aveva fondato per illuminare New York, si era lanciata in un'impresa storica, la costruzione del più potente reattore nucleare del mondo, proprio lì, nel cuore della Grande Mela. Sembra una trama alla Michael Crichton, il soggetto di un film di Steven Spielberg. E invece quella della centrale di fronte a Central Park è storia vera, che riemerge oggi dagli archivi del New York Times, accompagnata da quella particella grammaticale che inquieta quanto quelle dell'atomo, se. Che cosa ne sarebbe oggi di New York se Harland C. Forbes, il presidente della compagnia, fosse riuscito a convincere il Congresso che le preoccupazioni della gente erano ridicole, visto che soltanto una o due persone hanno finora sollevato questioni sugli effetti genetici delle radiazioni. E chi racconterebbe oggi questa storia se il signor Irving Katz non avesse organizzato la resistenza dei cittadini? Ok, per la verità il signor Katz era in primo luogo preoccupato per la caduta del valore dei terreni, ma da sempre, si sa, qui gira tutto intorno al dollaro. In quei giorni del 1962, la Con Edison aveva già costruito la centrale di Indian Point, sempre nello stato di New York. Ma se il nucleare deve competere con l'energia tradizionale, diceva, le centrali devono essere costruite nelle aree che servono. Fare arrivare a Manhattan l'energia da Indian Point avrebbe comportato una spesa da 75 milioni di dollari, il 40% in più del costo del reattore. Così si decise di costruire il mostro a Ravenswood, quella striscia di terra del Queens che si affaccia direttamente sull'Hudson. Il vecchio Seymour Thaler, il senatore, levò il suo grido di dolore. La mente dell'uomo non ha ancora inventato un mezzo meccanico che sia davvero a prova di incidente, ma la mente dei giovani tecnici della Con Edison ragionava diversamente. Lo scudo del reattore, una specie di igloo alto 50 metri e spesso 20 centimetri, incapsulato in un altro strato di cemento, avrebbe certamente resistito a una fusione accidentale e perfino allo schianto di un jet. È lo stesso tipo di coperchio che in quel periodo i giapponesi progettavano per Fukushima. E non è agghiacciante quell'ipotesi di schianto aereo? 2 mesi dopo l'orrore delle Torri Gemelle, il 12 novembre 2001, un jet dell'American Airlines si schiantò proprio sulle case del Queens. 265 morti. E che invitante bersaglio sarebbe stata la centrale di New York per Bin Laden? Fu ancora una volta il business a salvare Manhattan. Fatti due conti, l'acquisto fuori programma di un impianto nel Canada si dimostrò un affare migliore. Ma non per questo la Con Edison rinunciò all'incubo di nuclearizzare la Grande Mela. Nel 1968 propose niente meno che una centrale nel sottosuolo dell'isola, Roosevelt Island, sempre di fronte a Manhattan. Alla fine saltò anche quel progetto, ma i tifosi del progresso ad ogni costo erano comunque stati accontentati. Sul luogo dove doveva sorgere il reattore fu costruita, nel 1965, una centrale elettrica. Anche qui manie di grandezza. Era la più potente del mondo. E ancora oggi la Big Alice, come è soprannominata, serve il 25% dell'energia di New York. I turisti che dall'aeroporto JF Kennedy arrivavano in taxi se la ritrovavano sulla destra, salendo sul ponte di Queensbrough. Pensate cosa sarebbe stato: volare a New York e ritrovarsi una Fukushima tra i grattacieli. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Una Fukushima accanto ai grattacieli, quando New York voleva l'atomo in casa, di Angelo Acquaro, dalla Repubblica, di venerdì 15 aprile. Letture di Radio 24. Siamo nel 1894. e una minuta ragazza bruna di 23 anni sta per compiere un'autentica impresa senza precedenti: il giro del mondo con una bicicletta. Il suo gesto fu certo una rivoluzione di costume, ma come andarono veramente le cose? Il 25 giugno 1894, una minuta brunetta di 23 anni, occhi grandi e bocca volitiva, annunciava un'impresa senza precedenti. Madre lavoratrice di tre figli e moglie di un ambulante, se ne stava a cavalcioni di una bici dell'epoca, 19 kg di leggerezza, vestita di tutto punto. Proclamava che sarebbe stata la prima donna a fare il giro del mondo su due ruote, partendo quel giorno stesso. 15 mesi al massimo, senza un soldo e senza accettare nulla gratuitamente. Sarebbe dovuta tornare con $5,000. Così voleva una scommessa da $10,000 fatta da due ricchi mercanti di zucchero. Se vinceva la sfida, lei ne avrebbe guadagnati altrettanti. «Le donne devono avere le stesse opportunità degli uomini», dichiarò un'amica alla folla di Boston, mentre il capo di un circolo femminile si augurò che diffondesse costumi più decorosi tra i beduini e le nazioni più remote della terra. Trionfante, la ciclista dilettante sfoggiava un'oceanica gonna nera, giacca con maniche a gigot, camicetta avvitata con papillon. Con lei aveva solo un cambio di biancheria e un revolver col calcio di madreperla. Baciò le amiche, domandò se il cappello fosse a posto e partì. Il suo nome era Annie Kopchowski, ma tutti la conobbero come Miss Londonderry, dal marchio di un'acqua minerale. La scandalosa fanciulla che viaggiava senza marito e lo faceva per denaro, fama e libertà personale, s'era venduta il nome. Al suo passaggio un giornale di Buffalo scrisse: «Miss Londonderry ha solo 23 anni e con la sua tenuta da ciclista ha un aspetto molto attraente. È una sorta di agenzia pubblicitaria ambulante. Indossa nastri che promuovono diverse merci e riceverà $400 per una reclame che abbellirà il suo seno sinistro. Sulla gamba destra porta pubblicità per un valore di $100 e ha appena chiuso un contratto per coprire il braccio sinistro. Dice che anche la sua schiena è in affitto e spera di ricavarne $300. Fu probabilmente il primo caso in cui la fama di un'atleta donna servì a promuovere un prodotto. Immigrata lituana, si occupava della pubblicità per alcuni quotidiani. Abitava nel West End, i bassi fondi di Boston, due file di case popolari a tre piani sui lati, una maleodorante striscia di cielo come coperchio, li descriveva Mary Antin. Viveva lì un crogiuolo di immigrati di tutta Europa, tanti gli ebrei come Annie, appena sfuggiti all'oppressione zarista. «Non volevo trascorrere tutta la vita a casa con un nuovo bambino sotto il grembiule ogni anno», spiegò. Nel paese, che impazziva per le due ruote, si diffondevano le aspirazioni della nuova donna. Le notizie della sua impresa fecero il giro del globo, battute dal telegrafo di nuova invenzione. Scabrosissima, dopo pochi chilometri sfoltì il gonnellone, che diventò una gonna corta che arrivava fino alla sommità degli stivaletti. Poi la cambiò con scioccanti pantaloncini a sbuffo, e man mano che le miglia spinte sui pedali aumentavano, passò a una leggera bicicletta da uomo e si liberò dei vestiti in eccesso, orripilando i ben pensanti. Quando Annie non attirava l'attenzione per la sua impresa, lo faceva coi suoi calzoncini di foggia piuttosto aderente. Raccontò che la gente nei piccoli villaggi di campagna la fissava come se fosse scappata dal circo. Mrs. Londonderry ha espresso l'opinione che l'avvento della bicicletta sarà foriero di una riforma positiva dell'abbigliamento femminile, scrisse l'Omaha World Herald, e in effetti così fu. Come diede una spinta al dibattito sul suffragio universale, l'idea vittoriana di femminilità stava per trasformarsi. Spirito istrionico, affabulatrice nata, maestra nel reinventarsi, attraversò la Francia sollevando l'entusiasmo delle folle. A Marsiglia arrivò con il piede fasciato sul manubrio e l'accolsero migliaia di persone. I giornali locali pubblicavano gli orari di visita in cui sarebbe stato possibile incontrarla. Via via che pedalava, i suoi resoconti però si ingigantivano e le sue prodezze risultarono presto incredibili. «Immaginiamo che abbia esagerato, alcune donne lo fanno», scrisse al suo passaggio un giornale di Singapore e si prese anche dell'imbrogliona. Ma se l'obiettivo è la fama, non esiste cattiva pubblicità. Completò il giro del globo in tempo, tornando con i soldi pattuiti. Su due ruote attraversò però solo l'America, compreso il deserto dell'Arizona, che all'epoca non faceva ancora parte della federazione, era il selvaggio West, e la Francia. Per il resto usò soprattutto la nave. fu seconda per notorietà solo alla giornalista Nellie Bly, che nel 1889, 17 anni dopo che Jules Verne pubblicò Il giro del mondo in 80 giorni, lo completò in 72. Miss Londonderry finì nella storia senza memoria, quella delle imprese femminili. Le sue gesta furono dimenticate persino dalla sua famiglia. Peter Zeutlin, il pronipote che su di lei ha scritto un libro, venne a conoscenza della portentosa prozia solo per caso. Eppure, nel suo tempo, fu il simbolo di un'intera generazione di donne e una pioniera della lotta per l'uguaglianza femminile, che così tanta strada aveva ancora da fare. Povera Annie, con tutto il suo senso pratico e la sua abilità commerciale, oggi la chiamerebbero un'idealista. Ha fatto così tanto per ottenere così poco. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Annie Londonderry, la donna che sfidò il mondo su due ruote, pubblicato dalla Domenica del Sole 24 Ore di domenica 10 aprile a firma di Lara Ricci. La governatrice dell'Arizona Jen Brewer ha proposto al Congresso americano una tassa sugli obesi che non soffrono di patologia all'origine del loro stato e non fanno nulla per dimagrire. Applausi e accuse bipartisan sono piovute sulla proposta della governatrice, che prevede un ticket di $50 da destinare alle casse di Medicaid, la sanità pubblica che spende ogni anno cifre enormi per la cura delle malattie legate all'eccesso di peso. Respinto dai dirigenti del distretto scolastico di Los Angeles, ai quali aveva chiesto di limitare la vendita di bibite dolcificate agli allievi, il celebre chef inglese Jamie Oliver ha reagito con un pugno nello stomaco televisivo. Ha portato in un parcheggio un vecchio bus scolastico giallo, scoperchiato. Poi, davanti alle telecamere di Food Revolution, la sua trasmissione, ha fatto versare sul pullman una quantità di zucchero, in realtà sabbia bianca, pari a quella che viene diluita nel latte aromatizzato, consumato in una settimana dagli studenti della città. I camion hanno continuato a scaricare polvere bianca fino a quando il bus non è stato quasi sepolto. 57 tonnellate di zucchero, assorbito senza motivo da ragazzini candidati all'obesità e al diabete. La lezione inglese non è piaciuta agli amministratori della metropoli californiana, ma fa discutere un paese che, libertario in tutto, compresi i consumi alimentari, da tempo si chiede come disincentivare, senza ricorrere a vincoli e divieti, il consumo di cibi ipercalorici che ha trasformato l'America in un paese composto per quasi un terzo da obesi. Convincere la gente a rinunciare ad hamburger e patate fritte non è facile, ma chi propone regole o addirittura l'introduzione di una fat tax, una tassa su cibi zuccherati e grassi, simile a quella sul fumo, non si sente più dare dai liberisti del food nazi, come avveniva anni fa. L'ultima novità, la settimana scorsa, dal Far West. Scettica sull'efficacia di una tassa su bibite gassate e panini ipercalorici, la governatrice dell'Arizona, Jen Brewer, ha proposto di tassare direttamente chi è grasso. Gli obesi che non soffrono di patologia all'origine del loro stato e che non fanno nulla per dimagrire dovranno pagare un ticket di $50 destinato alle casse di Medicaid, la sanità pubblica per gli indigenti che spende cifre enormi per le malattie legate all'eccesso di peso. Misura crudele e regressiva, visto che l'obesità è più frequente tra i poveri, ha tuonato la sinistra liberal, mentre anche la destra libertaria è rimasta interdetta dall'iniziativa poco liberale della governatrice repubblicana. Ma a sorpresa, le reazioni positive sono state molto più numerose di quelle negative. Ormai gli americani percepiscono il problema sociale, capiscono che quella della massa corporea non è più solo una questione personale. Se ne accorgono quando si siedono in aereo tra due obesi o quando leggono che la cura di chi è sovrappeso costa ormai più di $200 miliardi l'anno al contribuente americano. E adesso anche i progressisti del Los Angeles Times plaudono all'iniziativa della Brewer, l'arcigna conservatrice che hanno tanto spesso attaccato. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Tassare gli obesi? L'America si divide, di Massimo Gaggi, dal Corriere della Sera di venerdì 15 aprile.